310. Braciuole nella scamerita. Eccovi un piatto di tipo tutto fiorentino. La scamerita è quella parte del maiale macellato ove, finita la lombata, comincia la coscia. Essa è marmorizzata di magro e grasso, quest'ultimo in quantità tale che piace senza nauseare. Ponete le braciuole in un tegame con pochissimo olio, 2 o 3 spicchi d'aglio con la loro buccia, un po' schiacciati, conditele con sale e pepe. Quando avranno preso colore da entrambe le parti, versate nel tegame 2 o 3 dita di bicchiere di vino rosso e lasciate che, bollendo, l'umido prosciughi di metà. Allora mettetele da parte asciutte, conservandole calde, e in quest'intinto tirate a sapore del cavolo nero già lessato, spremuto dall'acqua, tagliato non tanto minutamente e condito anch'esso con sale e pepe. Mandatele in tavola col cavolo sotto. 311. Cotolette di vitella di latte in salsa d'uovo. Dopo averle dorate e cotte alla sauté come quelle dei numeri 312 e 313, spargete sopra le medesime una salsa di rossi d'uovo, burro e agro di limone. Tenetele ancora un poco sul fuoco e servitele. Per 7 o 8 cotolette basteranno 3 rossi d'uovo, grammi 30 di burro e mezzo limone frullati in un pentolino prima di versarli.